alla mensa ufficiali, cena davvero. Bravo, bravo! I tre color dell'unita la bandiera non sono tre regni, ma l'Italia intera. Il bianco l'Alpe, il rosso i due vulcani, il verde l'erba dei lombardi piani. Bravo! E attaccassimo il canto della nostalgia. Benissimo, ma è forse quello della fanciulla del Verdi, Puccini. Ma che fanciulla del Verdi? Il coro del Verdi! Quella è musica! Attacca Rainoldi, sta attento che roba! Le solite broccole, ha detto che i turchi hanno conquistato Roma.